Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Disoccupazione giovanile ai minimi dal 2012 e 240.000 occupati più in un anno. Immigrazione, crollano gli sbarchi dalla Libia, riferisce il Viminale, nuovo corridoio umanitario. Corea del Nord, la Cina contro l'opzione militare, secondo Mosca gli Stati Uniti sono stati provocatori. Argentina, 48 condanne per gli aguzzini di ESMA, responsabili di almeno 5.000 morti negli anni del regime. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la pagina Facebook di Radio 24, quella di Effetto Giorno, dalle quali andiamo in diretta video dunque su Facebook. Se volete potete commentare anche là e potete anche vedere questa nuova illuminazione del nostro studio che ci acceca come in una sala operatoria. Dall'altra parte del vetro, Roberta Frisani in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione. Iniziamo parlando dei dati sull'occupazione. Buone notizie sul fronte disoccupazione. Il tasso a ottobre è rimasto stabile rispetto a settembre all'11,1%. Lo rileva l'Istat sottolineando che rispetto a ottobre 2016 il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,6 punti percentuali. 246.000 gli occupati in più sull'anno, la più bassa disoccupazione dal 2012. Cala al 34,7% inoltre ad ottobre il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni, con una diminuzione di 0,7 punti rispetto a settembre e un calo di 2,5 punti rispetto a ottobre 2016. Si conferma la tendenza positiva nel medio-lungo periodo, ha commentato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. In Europa la disoccupazione è scesa all'8,8% sull'anno, quella giovanile è al 18,6%. Il tasso di disoccupazione italiano è il terzo più alto nell'Unione Europea dopo Grecia e Italia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E le aziende stimano di assumere nel corso dell'intero 2012 460.000 laureati, più di 460.000 laureati e 1.400.000 diplomati. Ne assumerebbero di più se trovassero le figure professionali di cui hanno bisogno. Le imprese fanno fatica a trovare un laureato su 3 e un diplomato su 5. Stima che viene presentata oggi da Union Camera a Verona nel corso di Job e Orienta, il Salone Nazionale dell'Orientamento e della Formazione. Giuseppe Tripoli è segretario generale di Union Camera. Sentiamolo al microfono di Maria Piera Ceci. È l'ambito soprattutto di quelle che gli anglosassoni chiamano le lauree STEM, quindi degli indirizzi legati al terreno scientifico, tecnologico, dell'ingegneria, della matematica, a cui aggiungerei quest'anno abbiamo notato che c'è una richiesta di laureati in lingue su cui le aziende pensano di ritenere di avere far fatica a trovare la persona giusta. E devo dire, dentro quest'ambito la difficoltà cresce per quelle particolari professioni legate a impresa 4.0, a tutto il mondo 4.0, per esempio alla robotica, alla sensoria, alla gestione dei dati. Quindi quando cercano figure di quel tipo la difficoltà per le aziende cresce ancora di più. Lo stesso si può dire anche sui diplomi, perché anche i diplomati più difficili da trovare sono quelli legati per esempio all'ICT, all'elettronica, alla meccatronica, ed è un peccato perché sarebbe un problema che si può risolvere sia favorendo e facilitando un migliore incontro tra domanda e offerta, sia facilitando e favorendo il fatto che ci possono essere delle formazioni più mirate alle figure che in azienda servono. Ricca pagina economica oggi, che prosegue parlando invece di politica economica, perché il decreto fiscale andrà alla prova della fiducia mentre prosegue il dibattito sulla manovra. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Politica economica del governo dunque alla prova della doppia fiducia. Questa mattina è stata la volta della Camera a dire sì alla richiesta dell'esecutivo sul decreto fiscale che accompagna la legge di bilancio. Nel pomeriggio arriverà il via libera definitivo. Il testo è molto complesso e va dalla rottamazione bis delle cartelle all'uscita di scuola libera per gli under 14, passando per l'equo compenso, la stretta sulle sigarette elettroniche e le bollette a 28 giorni. Per quanto riguarda la cosiddetta rottamazione, l'intervento vale per tutte le cartelle degli ultimi 17 anni, inclusi anche i contribuenti lasciati fuori dalla prima edizione perché non in regola. L'operazione porterà nelle casse dello Stato 209 milioni di euro. Altro fronte, quello della manovra vera e propria. Lavori sospesi in questi minuti al Senato, si riprenderà alle 14 e il governo chiederà la fiducia su un maxi emendamento che dovrebbe essere espressione di un compromesso sui punti più spinosi, dal bonus bebè alla web tax, nel primo caso secondo i tecnici del Senato la riformulazione prevederebbe il bonus solo per il primo anno di vita dei nuovi nati. Quanto alla web tax, si lavora a migliorare il ruolo del sostituto d'imposta individuato nel sistema bancario, siamo pronti a compensare le banche per questo, dice il viceministro all'economia Morando. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta, sono giorni intensi anche per chi si oppone alla manovra. Non peggiorare in Parlamento il pacchetto pensioni è la richiesta della UIL che oggi a Roma ha riunito i delegati per far ripartire un lavoro sulla previdenza, spiega il segretario generale Carmelo Barbagallo, dopo l'ok alla proposta del governo di escludere 15 categorie di lavori gravosi dall'innalzamento a 67 anni dell'età pensionabile, proposta inserita nella legge di bilancio. Ponga, diciamo, una salvaguardia per tutto ciò che siamo riusciti a portare a casa in questo confronto e a Parlamento di evitare che vengano peggiorate le cose, perché dobbiamo ripartire da questo per continuare la nostra battaglia. Domani scenderà in piazza la CGIL, unico sindacato che non ha condiviso la proposta del governo sulle pensioni inserita nella manovra. La CGIL di Susanna Camusso manifesterà in 5 città per cambiare il sistema previdenziale. E contro i tagli della legge di bilancio alla sanità, oggi medici e veterinari hanno organizzato una manifestazione a Roma per proclamare uno sciopero nazionale per il 12 dicembre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Avete sentito il nostro Vincenzo Miglietta che ci parlava della rottamazione delle cartelle? Beh, qua il nostro fisco amico sta facendo una discreta confusione. Sentiamo. Pagare o non pagare, questo è il problema. A scrivere la versione contemporanea del dilemma amletico è il fisco, che oggi chiamerebbe alla cassa, occhio al condizionale, per il pagamento della terza rata della rottamazione delle cartelle esattoriali. Ma c'è, o meglio, ci sarebbe, attenzione al condizionale, una correzione al decreto legge fiscale che sposterà questa scadenza da oggi a giovedì 7 dicembre. Però la correzione non è ancora una legge dello Stato e quindi bisognerebbe, condizionale, pagare oggi quella terza rata, oppure si potrebbe aspettare, sempre al condizionale, perché nei prossimi giorni quel rinvio benedetto al 7 di dicembre diventerà finalmente legge. E allora, riprendendo l'Amleto, sarà più nobile versare oggi e togliersi il pensiero o confidare nella Gazzetta Ufficiale? Possiamo dirvi che è ragionevole pensare che tutto andrà per il meglio e si potrà attendere. Certo, basterebbe magari un tweet, un segnale di fumo, un comunicato stampa, qualcosa del genere. Perché, lo sappiamo, con il fisco la prudenza non è mai troppa e nemmeno la pazienza. Mauro Meazza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo ai dati sugli sbarchi. Diminuiscono gli sbarchi soprattutto dalla Libia. Si apre un nuovo corridoio umanitario dall'Africa, il primo dall'Etiopia. Sono atterrati questa mattina a Roma i primi 25 profughi provenienti da questo paese martoriato da conflitti e povertà. Molti sono giovani, tanti i bambini e l'accordo finanziato dalla CEI con l'8 per 1000 prevede il trasferimento in 2 anni in totale di 500 migranti etiopi. Questi primi nuclei familiari saranno accolti, alcuni da parenti già presenti in Italia, altri dalle strutture Caritas o della comunità di Sant'Egidio a Ventimiglia, Ragusa e Roma e avranno al loro fianco famiglie ed istituti religiosi nel supporto all'integrazione e nella ricerca di lavoro. Una strada, quella dei corridoi umanitari, che in tanti indicano come quella maestra nel non chiudere le porte a chi ha bisogno di protezione e allo stesso tempo gestire i flussi. E cominciano a vedersi gli effetti anche degli accordi con la Libia nel crollo delle partenze da quelle coste, meno 65% nel mese di novembre. E complessivamente dall'inizio dell'anno, calcola il Viminale, gli sbarchi nel nostro paese sono calati del 32%. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito anche di politiche migratorie, di alcune reazioni eccessive che generano in parte, lo avete sentito, lo ha raccontato Gianluca Nicoletti nella sua trasmissione, noi torniamo però sulla vicenda che abbiamo trattato anche ieri in effetto giorno, sia questa sorta di irruzione di alcuni nazisti all'interno delle sale di una confederazione di associazioni di Como che si occupano di accoglienza dei migranti, perché ovviamente la vicenda sta suscitando polemiche politiche. Diventa sempre di più un caso politico l'irruzione di un gruppo di skinhead in un'assemblea di associazioni impegnate nell'assistenza dei migranti a Como. Ad intervenire anche Matteo Renzi. Il PD è in prima fila nel dire che è uno scandalo e una vergogna, ma mi piacerebbe che lo facessero tutte le forze politiche, dice il segretario Dem. Da Asti, tappa del suo tour ferroviario, l'ex premier chiede che su questi temi non ci siano divisioni, ma si dice anche preoccupato per alcuni commenti di esponenti politici giudicati troppo timidi. Sull'irruzione, interamente ripresa da un video, tre deputati del PD hanno anche rivolto un'interrogazione al ministro dell'interno Minniti. Le indagini nel frattempo vanno avanti. Del gruppo, composto da 13 nazi skin appartenenti all'associazione di estrema destra Veneto Fronte Skinhead, 4 sono stati identificati dalla Digos e deferiti all'autorità giudiziaria per violenza privata. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo all'estero, gli aggiornamenti dal fronte coreano. Le azioni degli Stati Uniti contro la Corea del Nord sono intenzionalmente provocatorie. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, sottolineando che la via delle sanzioni ormai è esaurita. Pechino invece esprime profonda preoccupazione per l'ultimo lancio di missile balistico intercontinentale fatto dalla Corea del Nord. Ribadisce però che quella militare non è un'opzione e che la soluzione non può che maturare attraverso il dialogo e le consultazioni. Ma per Washington ora la guerra è più vicina. Parole dell'ambasciatrice all'ONU Nikki Haley al Consiglio di sicurezza sulla Nord Corea. Poco prima Donald Trump era tornato ad attaccare il leader di Pyongyang Kim Jong-un, descrivendolo come un cagnolino malato. Questo lancio dimostra che poche città occidentali sfuggirebbero ai missili nordcoreani, ha detto la ministra delle forze armate francese Parly. La Corea del Nord progredisce e rapidamente, come non essere preoccupati? E ha lanciato un appello affinché tutti applichino le sanzioni senza esitare, anche Cina e Russia. Le Nazioni Unite hanno però intanto rinviato la decisione di nuove misure punitive verso Pyongyang. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Israele, l'Argentina fa i conti con il proprio passato, col passato dei desaparecidos e del regime. Oggi 48 condanne. Alfredo Ignacio Assisi alla pena de prisión perpetua. Un grido che era chiuso in gola da 40 anni. Fuori dal tribunale di Buenos Aires, le madri dei desaparecidos della ESMA hanno celebrato le condanne al termine del processo più importante mai celebrato in Argentina. 5 anni di udienze, 800 testimoni, in aula 54 imputati, diverse condanne all'ergastolo. La ESMA è stata la Auschwitz del regime. A poca distanza dallo stadio dove la nazionale di Kempes vinceva nel 78 il mondiale di calcio, si torturava e uccideva brutalmente, si stima fino a 5.000 persone. Molte di loro furono gettate vive dagli aerei nelle acque del Rio della Plata. Il tribunale ha condannato per la prima volta anche due piloti dei cosiddetti voli della morte. Non posso chiamarla allegria, spiega Tati Almeida, madre di un ragazzo ucciso alla ESMA. I sentimenti si mescolano, ma sicuramente dopo tanto tempo possiamo dire di essere soddisfatte. L'Argentina è l'unico paese del Sud America che è stato capace di fare i conti col suo passato. I militari non hanno mai rotto il patto di silenzio, non hanno detto dove sono le fosse comuni, ma almeno la giustizia ha fatto il suo corso. Emiliano Guanella, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è una questione che, come sapete, da settimane sta allarmando le banche ed è il cosiddetto addendum della Banca Centrale Europea, che impone criteri più rigidi per la classificazione dei crediti deteriorati, ossia delle sofferenze, e potrebbe appunto creare problemi ai bilanci delle banche. Questa mattina l'audizione del capo della vigilanza bancaria della BCE, Daniela Nui, proprio su questo. Negli ultimi giorni si sta ipotizzando un rinvio. Olivia Zancaner, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, in una lunga audizione che tra l'altro è ancora in corso, Daniel Nui ha voluto chiarire una serie di punti in vista della chiusura della consultazione pubblico della BCE il prossimo 8 dicembre. Sentiamo. La vigilanza della Banca Centrale Europea, lanciando le nuove regole sulla copertura dei crediti problematici, non va al di là del proprio mandato. Come sostanza ritengono invece Parlamento e Consiglio Europeo, abbiamo l'obbligo di affrontare le vulnerabilità del settore bancario, spiega Daniel Nui, aggiungendo che non ci saranno azioni automatiche, ma la BCE discuterà con ciascuna banca le coperture caso per caso a seconda del profilo di rischio dell'istituto, spiega la responsabile della vigilanza della BCE. Sulle nuove regole che dovrebbero entrare in vigore a gennaio, dunque, la BCE ribadisce in sostanza quanto già dichiarato. Ricordiamo che anche la Commissione europea ha lanciato una consultazione, che sono in arrivo una proposta dal Parlamento europeo e anche dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, come ha annunciato lo stesso presidente Patuelli. Ed è tutto. Grazie Livia Zancaner. La cronaca: anche un bimbo di 6 anni veniva utilizzato per lo spaccio di droga a Catania dall'organizzazione che è stata sgominata questa mattina dai carabinieri. Hanno arrestato 36 persone per smercio di cocaina e marijuana nel rione di Librino. È uno dei tanti particolari che sono emersi durante la conferenza stampa dell'operazione. È una storia di degrado che riguarda due bambine, arriva dal Bresciano. La storia arriva dalla provincia di Brescia e già risultava difficile da raccontare nella sua drammaticità. L'ultimo dettaglio sul quale si indaga è però, se possibile, ancora più inquietante. Nel sangue dei bimbi di 2 anni e 8 mesi lasciati dal padre in auto per giocare alle slot machine c'erano tracce di cocaina. I bimbi erano stati trovati soli dai carabinieri di Verola Nuova, abbandonati in un parcheggio a Borgo San Giacomo, mentre il papà era a giocare e la madre ad adescare clienti lungo la strada. Decaduta la potestà genitoriale, si trovano adesso insieme in una comunità protetta ed è già partita d'urgenza la procedura di adottabilità. Come siano venuti a contatto con la droga è quello che si sta cercando di capire. Non sono valori del sangue compatibili al fumo passivo, ha precisato il procuratore dei minori di Brescia. Siamo davanti ad un caso molto grave, ha aggiunto. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sarà ovviamente da appurare su questa vicenda se i servizi sociali, se il comune fossero a conoscenza di questa situazione, come mai non si sia intervenuti prima. Ci sarà tempo comunque. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo subito il nostro Giro d'Italia. Lo inizieremo da questa vicenda che arriva da Merate, provincia di Lecco, dove si racconta di un medico un po' troppo solerte che ha fatto per il suo super lavoro arrabbiare i colleghi, almeno questo è il racconto che sta circolando in queste ore, e si è beccato una sospensione di 2 mesi. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei dati sulla disoccupazione giovanile, di quelli sull'immigrazione, della Corea del Nord, delle condanne arrivate in Argentina e poi di una brutta storia di degrado in arrivo da Brescia. Iniziamo dunque il nostro Giro d'Italia oggi da Merate, in provincia di Lecco. Perché? Perché c'è una storia che ci ha incuriosito, l'abbiamo trovata sul quotidiano Il Giorno, una vicenda così raccontata nel titolo. Il primario opera anche di sabato, colleghi in rivolta, sospeso per 2 mesi. Che cosa è successo? È successo che, e così viene raccontata la vicenda, Gregorio Del Boca, primario di ginecologia, appunto l'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, in provincia di Lecco, ha operato sostanzialmente anche il sabato, anche in orari per così dire diversi dal solito, per ridurre le liste d'attesa, facendo lavorare ovviamente le persone che devono lavorare nella sala operatoria anche in questi orari e in questi giorni. E che cosa è successo? Che appunto c'è stata una sorta di ribellione dei colleghi e poi appunto è stato sospeso per 2 mesi. Per sentire però l'altra parte rispetto a come viene raccontata questa storia, abbiamo in linea Stefano Manfredi, che è direttore generale dell'AST Lecchese, che è l'azienda sociosanitaria territoriale alla quale fa capo l'ospedale di Merate. Buongiorno Manfredi, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie, buongiorno. Che cosa è successo? State punendo chi vuole lavorare di più? Non mi sembra che sia esattamente così le cose, in realtà. Innanzitutto la prima cosa che voglio dire, ci tengo, approfitto di questo palcoscenico importante per dire che rassicurare i cittadini del Meratese che non è in discussione l'attività dell'ospedale in alcun modo, nello sviluppo dell'attività dell'ospedale, nello sviluppo dell'attività del reparto. Peraltro sottolineo che la sanzione è stata sospesa, non dico annullata. La sanzione viene decisa da un ufficio dei procedimenti disciplinari, che è un organismo volutamente, che è stato voluto come autonomo dal legislatore proprio per evitare ingerenze eventualmente anche della direzione in positivo e in negativo. Quindi la sospensione del primario La sospensione è sospesa, non vuol dire annullata, per dare tranquillità, rasserenare gli animi e dare maggiore continuità al servizio, naturalmente, anche se il servizio non è che si interrompe. Se un primario o chiunque in ambito di un grande ospedale è a casa due mesi per i motivi più svariati, possono essere legati a motivi di salute e quant'altro, non è che si chiude reparto. Quindi abbiamo tranquillizzato gli abitanti del Meratese o chi passa dalle zone. Però ci dica un po' questa storia, che cos'è? Appunto, lavora troppo questo del Boca? Ma io non entrerei sul problema di lavorare troppo o lavorare poco. Il problema è che se io mi limito, allora, per motivi di riservatezza, sottolineo, e di privacy, che come lei ben sa dobbiamo rispettare, non entro nel merito del procedimento su cui ovviamente ha provveduto a emanare la sanzione l'ufficio competente dopo ampie istruttorie, anche di una commissione terza che ha esaminato, prese con professionisti esterni, quindi non è che dalla mattina alla sera ci si alza e si prendono questi provvedimenti, c'è un lungo procedimento istruttorio. Detto questo, voglio dire, mi sembrerebbe offensivo nei confronti dei lavoratori e dei professionisti dire che non vogliono lavorare, io ho trovato delle persone che vogliono lavorare. Sì. Esistono le corsie ordinarie e esistono le corsie d'emergenza. Le corsie ordinarie vanno utilizzate per l'attività ordinaria. L'attività ordinaria si svolge da lunedì al venerdì nelle sale, nell'ordinario, e poi ci sono delle sedute che possono essere attivate in via d'emergenza. La corsia d'emergenza, lei si immagina un'autostrada, noi siamo i figli in autostrada. Non è che siccome c'è la corsia a destra che è libera perché la corsia d'emergenza possiamo viaggiare sulla corsia a destra per risparmiare tempo, perché quella va usata per l'emergenza. Ecco. Soltanto limitandomi a quello che è uscito dalla stampa, e quindi senza ulteriori elementi che possono essere oggetto del provvedimento, quindi, mi limito a dire che la corsia d'emergenza va usata per quindi l'emergenza. Il tema non è il troppo lavoro, ma l'utilizzo di strutture che dovrebbero essere dedicate all'emergenza per attività ordinaria. Ho capito bene? A quanto pare sì. E aggiungo che, l'attività, l'organizzazione aziendale, come lei sa, è un'organizzazione assai complessa, quindi non è che ognuno decide come gestire l'organizzazione aziendale, c'è un'organizzazione che ha dei criteri, che ha dei procedimenti che devono essere naturalmente da tutti rispettati. Lei può immaginare, Manfredi, mi scusi, quale sarà il sospetto che si innesterà nei nostri ascoltatori e che io, del quale mi faccio portavoce, ed è questo: ma non è che questa questione dell'emergenza versus attività ordinaria è in realtà la scusa per punire un comportamento che disturbava esattamente da quel lato, disturbava per il troppo lavoro? Io ritengo di no, ho tutti i motivi per credere che non sia così, dopodiché appunto c'è nel troppo lavoro veramente non c'entra nulla, cioè non è l'elemento del contestato, non è certamente troppo lavoro o ci mancherebbe altro. Noi stiamo lavorando costantemente e quotidianamente per ridurre le liste d'attesa, guardi. I problemi che abbiamo sulle sale operatorie sono legati essenzialmente alla disponibilità di professionisti, cioè abbiamo pochi anestesisti, come lei sa, è un problema nazionale, non è un problema locale di Granate, e quindi dobbiamo razionalizzare l'uso delle sale operatorie, e vengono dedicate le sale ordinarie divise secondo le varie livelli di priorità tra gli altri professionisti. È evidente che io non ho un problema di sale operatorie, noi abbiamo tante sale operatorie e anche moderne, anche nuove, e particolarmente nell'ospedale di Merate. Ho un problema di copertura dei turni operatori con gli anestesisti, perché è una risorsa sempre più rara per politiche del passato, ma è un problema comune a tutti gli ospedali. È un problema comune a tutti gli ospedali. Certo. Allora, io la ringrazio per aver dato le sue spiegazioni, per quanto poteva, ovviamente, proprio perché, come avete sentito, il procedimento disciplinare è in corso, e quindi, come è corretto che sia, il direttore generale dell'azienda sanitaria ci dice quello che può. La ringrazio comunque per essersi prestato, per aver accettato il nostro invito. Stefano Manfredi, direttore generale dell'AST Lecchese, buona giornata e buon lavoro, è il caso di dirlo. Grazie a lei, molto gentile. Sì, vedo che alcuni di voi non sono convinti dalla spiegazione di Manfredi. Come avete sentito, si è potuto anche sbottonare poco perché la situazione è quello che è. C'è un procedimento disciplinare. Vedremo come evolverà la vicenda. La storia è stata raccontata dai due fronti. E veniamo a un altro tema, collegato in parte a una notizia che vi abbiamo dato nella prima parte della trasmissione, ossia questo netto calo degli sbarchi che c'è stato nell'ultimo periodo, in particolare dalla Libia, un vero e proprio crollo, e però la pressione ai nostri confini in parte prosegue, o meglio, non la pressione per entrare in Italia, ma la pressione per uscire dall'Italia. Abbiamo tante volte raccontato i Ventimiglia, abbiamo tante volte raccontato del Brennero, c'è un'altra area nella quale, certo, la pressione non è fortissima, ma la situazione può creare qualche complicazione. Siamo in Valsusa e non solo. Trenitalia ha fatto sapere che chiuderà due stazioni, o almeno le sale d'attesa di due stazioni, esattamente perché ci si vanno a mettere i profughi che tentano di passare il confine, tentano di andare in Francia e regolarmente vengono respinti. Noi siamo in linea con Francesco Avato, spero di aver messo giusto l'accento, che è il sindaco di Bardonecchia. Sì. È giusto, sindaco? È giusto, grazie, sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. si trova nella zona, so che tra l'altro ha chiesto anche un incontro al prefetto, non so se l'ha già incontrato per cercare di gestire questa situazione. Ci racconta un po' come vanno le cose? Ma sì, noi abbiamo come sindaci della zona, oltre al sottoscritto anche il sindaco di Urs, che è la stazione più vicina, che è un po' anch'essa baricentrica rispetto a questi flussi che ci sono verso la Francia. Sì, noi abbiamo sollevato, ovviamente non oggi, ma già da diverso tempo, la questione, avremo all'inizio della prossima settimana una riunione in prefettura. La posizione di RFI è stata quella di chiudere in questi giorni, le sale d'attesa sono chiuse, appunto i luoghi in cui poter anche banalmente fare un biglietto, passare io sul treno oppure attendere. Sì, e non sono zone le vostre nelle quali fa caldissimo, No, appunto il tema è proprio questo. Abbiamo riscontrato, qualora ce ne fosse bisogno, che l'inclemenza del tempo, delle temperature, lei conti che siamo a 10 gradi sotto zero in questi giorni, non hanno dissuaso, non dissuaderanno delle persone che hanno fin qui affrontato dei viaggi inenarrabili e che quindi non si fermano di fronte a uno sbarramento. Sì, il concetto è mi sono attraversato il deserto, figurati se il meno 10 perfetto. Mi ferma dal tentativo di passare in Francia, no? Oppure ho visto sul barcone il mio vicino calpestato e ucciso, cioè, a fronte di queste peripezie questi ragazzi vogliono solo raggiungere magari il congiunto in Francia o nel nord Europa. Ecco, noi da questo punto di vista siamo un luogo, siamo quello che siamo sempre stato, il nostro territorio di confine, quindi siamo un luogo di passaggio. Sì. Esatto. Sindaco, siete riusciti a stimare, magari anche con la prefettura, quante persone ci siano a questo punto su questa tratta, perché non è che sono concentrate in un solo luogo? Ma lei diceva bene prima, la pressione sui nostri luoghi è ben diversa rispetto a quella che si è concretizzata per esempio su Ventimiglia o in altri luoghi, là parliamo di centinaia di persone giorno. I nostri numeri sono di diciamo mediamente una dozzina di persone giorno, certamente l'aridità dei numeri non può essere sottovalutata, lì dietro ci sono persone che hanno freddo, che hanno bisogno di essere... diciamo in qualche misura, le faccio un esempio, alcuni di questi ragazzi li vediamo arrivare con le ciabatte, ecco, immagini lei cosa significhi, oppure con le maniche corte, il nostro lavoro di volontariato. A meno 10 con le ciabatte, voi come lo state gestendo come comune? Riuscite a mettere in campo qualcosa o no? Noi diciamo, pur non avendo compiti di istituto, ovviamente tendiamo a farci carico delle situazioni concrete e quindi con la collaborazione e l'ausilio dell'associazione di volontariato, la Croce Rossa, la Caritas, forniamo generi di conforto, abbigliamento idoneo, eccetera, ma è logico che se le cose dovessero continuare su questa falsa riga e incrementarsi, il sistema che noi possiamo gestire, siamo pur sempre un comune di 3.000 abitanti, diciamo che forse faremo un po' fatica a continuare a gestire da soli questi processi, ecco. La ringrazio, grazie a Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia, per la sua testimonianza e per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, rimarremo in Piemonte, perché... per il sindaco di Orbassano che ha deciso presepe in tutte le scuole per difendere la fede cristiana. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: disoccupazione giovanile ai minimi dal 2012, 240.000 occupati in più in un anno. Immigrazione, crollano gli sbarchi dalla Libia, riferisce il Viminale, nuovo corridoio umanitario. Corea del Nord, la Cina contro l'opzione militare, mentre secondo Mosca gli Stati Uniti sono stati provocatori. Argentina, 48 condanne per gli aguzzini di ESMA, responsabili di almeno 5.000 morti negli anni del regime. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook. Non capisco Francesco che ci scrive su WhatsApp perché manda solidarietà al direttore generale dell'ASL, quella che ha la competenza su Merate, dicendo che l'abbiamo attaccato. È stata un'intervista semplicissima, piatta, nel quale gli abbiamo fatto raccontare quello che aveva da dire. Ci sembrava almeno così. Oh, parliamo di traffico adesso. C'è chi sceglie di sostituire i semafori con le rotonde per snellire il traffico agli incroci, chi sceglie di far funzionare i semafori affidandosi a complicati algoritmi che si rendono conto magari di quando c'è traffico da una parte e dall'altra, e c'è un punto di Napoli invece nel quale hanno deciso di spegnerli perché funziona meglio così. Alfredo Maraffino è comandante dell'unità operativa della Polizia Municipale San Lorenzo Vicari a Napoli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. È successo che qualche giorno fa un cortocircuito ha mandato in tilt i semafori nella zona della stazione centrale e il traffico scorreva molto meglio. Certo. Sì, è vero, infatti era quella una zona centrale di Piazza Garibaldi e della limitrofa Piazza Principe Umberto, e praticamente noi avevamo già la zona in sofferenza anche prima, perché la zona è tutta quasi cantierizzata per i lavori della metro che avanzano giorno per giorno. E quindi questi semafori ci davano effettivamente qualche problema di viabilità. Premesso che con gli uffici tecnici ho chiesto e sono intervenuti per un po' per regolamentare un po' i tempi, un po' su un versante, un po' sull'altro, però ci siamo resi conto che tale cosa nemmeno ci dava buon esito, non andava bene. Poi è capitato l'anomalia alla cabina dei semafori e mi sono reso conto che effettivamente si è snellito, si è azzerato quasi tutto il traffico, ovviamente. Ho atteso un po' che gli stessi venissero riparati per vedere un po' se effettivamente la mia era solo un'impressione, ma non solo la mia, anche di tutti i cittadini, ed effettivamente è stato così. Alla riaccensione dei semafori abbiamo avuto una proposta. Che poi è bellissimo perché la vulgata vuole voi napoletani estremamente indisciplinati. In realtà l'assenza di semaforo, ha generato purtroppo una disciplina pazzesca, a quanto pare. Certo. Se si è troppi solerti, in effetti è successo questo. E quindi lo spegnimento del semaforo lei lo ha tramutato in una pratica regolare. Dalle 7 alle 19 il semaforo è spento. Io ho ufficializzato una richiesta all'assessorato che ha condiviso pienamente con me la richiesta. E a giorni, ad ore, in effetti noi metteremo, sempre su mia richiesta, i semafori sul lampeggiante dalle 7 del mattino alle 20 di sera. Che è l'esatto contrario di quello che si fa di solito, no? Perché di solito si spengono di notte. Ovviamente i due incroci saranno comunque presidiati da nostro personale, ma comunque noi abbiamo bisogno che questi semafori, in questo momento, in via sperimentale, sì, vengano messi sul lampeggiante. Vabbè. E risolviamo un po' il problema della Piazza Garibaldi. Quantomeno per il momento. Allora la ringrazio, grazie a Alfredo Maraffino, comandante dell'unità operativa della Polizia Municipale San Lorenzo Vicari a Napoli. Qualcuno mi scrive anche a Goito, provincia di Mantova, il traffico è più scorrevole. Oh, ma qua parliamo di Napoli, senza offesa per Goito, provincia di Mantova, le dimensioni sono un pochino diverse. Eugenio Gambetta, sindaco di Orbassano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. buongiorno a voi tutti, grazie. Presepe in tutte le scuole per difendere la fede cristiana, ho capito bene? Beh, è un invito, non è un obbligo, è un invito, chiaramente, questo è evidente, no? A parte che è una pratica che da noi è già abbastanza portata avanti, ci sono diverse scuole che lo fanno, è un invito ad allargarlo anche alle altre, ma soprattutto un po' un richiamo a questa nostra cultura. C'è un po' così la filosofia di temere, di aver paura di danneggiare la sensibilità degli altri portando avanti le nostre tradizioni. Invece io ritengo che sia il contrario, anzi, sì. Le nostre tradizioni vanno affermate, soprattutto quelle molto positive come il presente. Ma cos'è questa cosa che avete tutti, sindaco, con le scuole? L'altro giorno anche un preside di Palermo, come sai, è finito in piena polemica perché ha deciso di far togliere, non lo so, non mi ricordo cosa c'era, la foto del Papa, la statua e la Madonna e cose di questo genere, da dentro la scuola, ha detto smettete di pregare in classe perché è un edificio laico. È successo un casino, addirittura alcuni genitori hanno mandato i figli col rosario al collo come una collana, insomma. Ma cos'è che avete con questa cosa delle scuole? Non si può star tranquilli, dire guardate, qua non entrano simboli di nessun tipo, né religiosi né niente di questo genere, è un edificio rispettoso di tutto e basta, non si può far così. Sì, no, ma l'esposizione di simbologia religiosa nei locali pubblici non è che contrasta la concezione della laicità delle istituzioni. Il nostro appunto è un invito, non è assolutamente, ma il concetto è questo. Per i meno giovani, come sono anch'io purtroppo, hanno bisogno a volte solo di un richiamo, tipo un vaccino, per ricordare quelli che sono i valori, i nostri valori cristiani o cattolici, tipo quello del presepe. Per quelli che sono giovani il discorso è un po' diverso, sono valori che non sono così radicati, qui bisogna operare, sensibilizzare. Ma perché lo devi sensibilizzare? Quello che non capisco, perché bisogna sensibilizzarlo con un simbolo religioso? Qua un ascoltatore dice, sì, ci scrive, magliate e chi li tutela, perché è una provocazione, però insomma ci sta in qualche modo. Ma non è una violazione dei loro diritti o una forzatura nei loro confronti. Il presepe non è solo un simbolo religioso, il presepe rappresenta uno straordinario messaggio di pace, di serenità, di civile convivenza, è anche una sorta di cultura, se lo rivediamo all'interno, di immagine contadina, che non è una roba di cui dobbiamo vergognarci, ma un simbolo dei valori reali sinergici del nostro territorio. Quindi ciò non è proprio solo il simbolo religioso, ma è un simbolo culturale che ci avvicina, che ci rende tutti un po'. Quindi il presepe buoni, non come simbolo religioso, ma come simbolo culturale, però come simbolo culturale sociale, che ha un suo retroscena religioso evidentemente nella campagna. No, c'è, perché insomma, certo. Non è che il presepe rappresenta, mi scusi, non è che il presepe rappresenta qualcosa di culturalmente a caso, cioè rappresenta la natività di Gesù Cristo. Esattamente, noi lo facciamo da 8-9 anni, lo facevamo per 4 anni di fila, abbiamo fatto il presepe vivente in piazza, per esempio la notte di Natale, poi 100 figuranti che stavano fino alle 3 di notte, era un po' un problema trovarli tutti gli anni. Adesso facciamo la capanna della natività, dove la notte di Natale si anima poi con dei personaggi viventi. Vabbè, facciamo così, vedremo quanto aderiranno effettivamente le scuole. Nel frattempo, grazie a Eugenio Gambetta, sindaco di Orbassano, ho l'impressione che le polemiche, qualche polemica ci sarà su questa vicenda. Comunque vedremo che cosa succederà. Grazie sindaco, traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.